Se 8 ore sono troppo poche, provate voi a lavorare e sentire. Sì, posso volare! I believe I can fly! Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Indio! Non si può andare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Prima o poi vi sparo! Allora, quando sono le 22:10 minuti, questa è Radio Possum. Come di consueto, ogni lunedì dalle 22 alle 23 su Radio Onda Rossa. Con, vabbè, 10 minuti di ritardo canonico, però ci può stare, no? Negli ultimi tempi eravamo un po' troppo puntuali. Allora, anche questa sera una nuova puntata, di che cosa parleremo? Parliamo di un'iniziativa che si tiene in realtà a settembre, noi ci arriviamo con un bel po' d'anticipo perché ci teniamo comunque a presentarla, la nona edizione dell'incontro per la liberazione animale, 6-7-8 settembre, un'iniziativa che si tiene ormai da 9 anni, in cui le varie realtà che si occupano di antispecismo, liberazione animale e della terra si confrontano per scambiare punti di vista, affrontare argomenti specifici, lanciare e organizzare campagne e via dicendo, insomma. Va bene, allora lasciamo concludere la canzone e poi cerchiamo di metterci in collegamento con una tra le organizzatrici dell'incontro. E allora, siamo in collegamento con una tra le organizzatrici dell'incontro di liberazione animale. Ciao, ci senti? Ciao. Sì, ciao. Ciao. Ok, perfetto. Senti, allora... E niente, dai, cominciamo un po' a parlare dell'incontro di settembre, un po' se prima magari per linee generali, se ci spieghi insomma agli ascoltatori, noi l'abbiamo un po' accennato al volo, ma più nel dettaglio che cos'è l'incontro, come viene organizzato, di cosa si parla, insomma per sommi capi in generale, poi magari entriamo... Puoi alzare la voce che ti sento lontano, scusa. Sì, mi senti un po' meglio adesso? Adesso sì. Ok, no, dicevo meglio. Che noi per sommi veramente in maniera molto sintetica abbiamo spiegato un po' che cos'è l'incontro, però magari se tu lo spieghi un po' meglio nel dettaglio, sia okay. Che cos'è l'incontro in generale, sia anche poi entriamo nello specifico di questa edizione di settembre. Sì, va bene, allora beh, questo è il nono incontro di liberazione animale, perché ormai è il nono anno che in Italia viene organizzato appunto l'incontro di liberazione animale, e diciamo che quest'anno ci siamo proposti di dare una visione della liberazione animale a più ampio respiro, nel senso che riuscisse a mettere in connessione le diverse forme di lotta e che appunto si contrappongono alle diverse forme di dominio e all'antropocentrismo, nel senso che nel momento in cui si attua una critica radicale ai rapporti di potere, inevitabilmente la lotta di liberazione animale non riguarda più solo gli animali, ma tutto quello che ci circonda, quindi il resto della, del vivente, diciamo, ma anche tutte le forme di oppressione, di sfruttamento che vengono perpetrate anche nei confronti degli umani, e non solo quindi della terra o degli animali intesi in senso stretto, come appunto gli animali che non sono, di cui l'essere umano a volte non ne fa parte, nel senso che appunto, come dicevo all'inizio, vogliamo dare un più ampio respiro in modo tale che la liberazione animale esca da quegli schemi dell'animalismo in cui a noi sembra che sia ricaduta, ecco. E questa era la proposta da cui siamo partiti, perché comunque molti di noi hanno fatto parte, insomma, di noi, diciamo, di quelli che la organizzano, hanno fatto parte di diverse campagne che inevitabilmente hanno fatto la storia di un certo tipo di movimento di liberazione animale in Italia, quindi da campagne come Chiudere Morini a Attacca l'industria della pelliccia, a Shark, sono andati anche diciamo in giro per l'Europa quando ci sono state le varie proteste di Shark, o hanno partecipato ai diversi incontri internazionali, e quindi insomma ci portiamo dietro una storia. Infine, non pretendiamo di essere il movimento di liberazione animale, ma siamo una parte del movimento e vogliamo dare la visione che noi abbiamo di ciò che significa liberazione animale. Questa è brevemente, diciamo, la sintesi del perché ci siamo ritrovati. E nello specifico, mi senti? Nello specifico, sì. Come si svolgerà l'incontro? Okay. Come lo pensavate di organizzare le giornate? Se avete già un programma, una bozza di programma, sì. Temi che volete, di cui volete parlare in particolare? Ok, allora l'incontro sarà il 6, 7, l'8 di settembre di quest'anno, ovviamente. E, diciamo, la location, il posto in cui si svolgerà, uscirà a breve sul sito internet, e abbiamo un programma già definito. Inizieremo venerdì con una pericena dalle 18 alle 20, un po' per aspettare anche magari gente che insomma ha da fare, magari lavora, insomma. Poi si partirà con la presentazione dell'incontro, quindi quelle che sono le linee guida, che magari ve le espongo dopo che abbiamo parlato un attimo del programma. E verso le 9 si inizierà con le riflessioni sulla situazione attuale, i cambiamenti del movimento di liberazione animale che sono stati percorsi alla fine più o meno in tutti questi anni, quindi dall'inizio, dalle prime, diciamo, azioni che risalgono più o meno a una ventina di anni fa fino alle sue evoluzioni attuali, a quello che è adesso. Poi il giorno dopo, il sabato mattina, si inizierà con la colazione, che abbiamo stabilito degli orari per le colazioni, pranzo e le cene, per poter favorire la partecipazione di tutti ai vari workshop. E si inizierà con una riflessione sul privilegio, con un focus sull'antisessismo. Sul privilegio, perché bene o male siamo stati tutti, parlo sempre un po' della situazione italiana più che altro, siamo stati tutti socializzati a un ruolo che ci piace o no, e quindi più che altro era cercare di riflettere su le proprie gabbie mentali, quindi è più un lavoro di autoriflessione questo. Poi ci sarà, si affronterà la politicità della lotta, che è stata divisa in due parti perché è un argomento che abbiamo sentito molto, un argomento che però va a toccare molti punti. Si parlerà di autoritarismo, di repressione e di solidarietà. Quando noi però parliamo di politicità della lotta, non lo facciamo in termini di politica di palazzo. Per noi la politicità della lotta è appunto quello che dicevo all'inizio, il fatto di collegare tutti i vari tipi di sfruttamento e i vari tipi di oppressione, cercare di trarne una radice comune e di criticare in maniera radicale, di combattere in maniera radicale questa radice comune che noi ritroviamo nei rapporti di dominio e nell'antropocentrismo stesso. Poi ci sarà un workshop sul controllo sociale, un workshop sui rifugi, cioè il senso che i rifugi per animali hanno oggi. Con rifugi intendiamo, magari per chi non lo sapesse, non i canili, ma quei, quei posti in cui con le osi, diciamo, in cui gli animali che vengono definiti da reddito, quindi le mucche, maiali, galline, capre, vengono in qualche modo salvati da, da quello che potrebbe essere il loro futuro immediato, quindi da dei macelli, da dei laboratori di vivisezione, quando ad esempio vengono, diciamo, dismessi, ad esempio non so, i topi che non sono più utili, quindi in quel determinato laboratorio X vengono verrebbero uccisi, li danno a questi rifugi. Poi ci sarà, parleremo di unione tra ecologismo e animalismo, perché appunto, come dicevo prima, vogliamo tracciare una sorta di fil rouge tra le varie lotte. Verrà proposto un dibattito sulla critica alla tecnologia come forma indiretta dell'oppressione animale, perché magari molto spesso non ci rendiamo conto che l'oppressione che si ha verso gli animali non è solo quella diretta per cui ci nutriamo degli animali, ma anche attraverso l'inquinamento per la produzione, ad esempio, non so, di un panetto di tofu, che comunque a livello industriale comporta lo sfruttamento di enormi quantità di acqua, coltivazioni di soia, insomma, magari una cosa su cui uno non riflette tutti i giorni, ecco. Poi ci sarà un momento di proposte pratiche, che l'abbiamo intitolato Cosa bolle in pentola, e infine la sera di sabato si parlerà del senso dell'azione diretta, cioè che senso ha l'azione diretta. La domenica, sì, domenica mattina sempre la colazione tra le 7:30 e le 9:00, ci sarà un dibattito tra abolizionismo e liberazionismo, poi parleremo delle diverse strategie di lotta tra violenza e non violenza, e poi niente, poi la, questo è la domenica, si termina nel primo pomeriggio. Prima mi sono sbagliata, era il programma della domenica. Ok, senti, tu questo incontro un po' ce l'hai detto con quali propositi nasce. Scusa, non ti sento bene. No, sono io che parlo lontano dal microfono, okay, mi sa, ma adesso dovrebbe andare meglio. Forse è il caso che tempare usa il microfono dopo 10 anni che fa questa trasmissione. Vabbè, a parte questo, ti dicevo, un po' ce l'hai detto che su quali basi nasce. Voi questo incontro lo progettate, nel senso, anche con quali obiettivi, nel senso, magari avete intenzione di lanciare poi delle campagne, di sviluppare dei discorsi anche al di fuori dell'incontro, e via dicendo, insomma, e soprattutto rispetto agli altri incontri che ci sono stati, cioè ci puoi dire un po', molti di voi ve ne siete fatti molti, se non quasi tutti, come negli anni sono cambiati questi incontri? Perché per esempio i primi, erano, almeno il primo mi ricordo io personalmente, che era veramente un incontro che metteva in contatto realtà diversissime, cioè c'erano anche persone per esempio legate al mondo delle associazioni, no, per dirti. Com'è cambiato in questi anni l'incontro di Liberazione Animale, che poi, se vogliamo, è anche lo specchio delle evoluzioni in peggio o in meglio del movimento italiano? Sì, io penso questo, nel senso che si è cambiato seguendo un po' il movimento esterno, nel senso, il movimento in totale, no? All'inizio erano, io ho partecipato dal secondo, il primo non c'ero, e è vero, c'erano le diverse associazioni che però secondo me si sono distaccate nel momento in cui hanno capito che l'incontro di liberazione animale non era l'incontro dei diritti animali, non era l'incontro della del protezionismo verso gli animali, no? L'incontro di liberazione animale parla proprio di liberazione animale. Cos'è la liberazione animale? Non può passare per nessuna, ti dico, ovviamente la mia posizione e la posizione, credo, anche se ci siamo ritrovati con le persone che lo organizzano quest'anno, non può passare attraverso la delega alle istituzioni, cosa che invece i protezionisti fanno. E molto spesso anche chi parla di diritti, no? Perché il diritto è sempre stabilito da un'entità esterna e superiore, e secondo me queste associazioni piano piano hanno capito che non avrebbero trovato un, passami il termine, un compromesso con chi parlava di liberazione animale, perché chi parla di liberazione animale, non, almeno per quanto... Pronto? Pronto, ci senti? Io. Ok, è caduta la linea. Allora, a metà del ragionamento, adesso cerchiamo di rimetterci in contatto. Allora, pronto, ci risenti? Sì, sì, io vi risento. Ok, allora stavi, ti riallaccio il ragionamento, se eri rimasta sul, diciamo, stavi facendo un filologico sul fatto che la maggior parte delle realtà associazionistiche che all'inizio partecipavano all'incontro di liberazione animale si sono staccate nel momento in cui non sono riusciti a trovare un compromesso tra quella che è la politica protezionista dell'associazione e quella che invece era, diciamo, la politica che voleva fare chi più che partecipavano all'incontro di liberazione animale, se non sbaglio. Sì, e secondo me questo è il motivo per cui tante associazioni si sono distaccate. Poi io cioè alcune delle persone che oggi fanno parte del movimento di liberazione animale, persone con cui attualmente ho organizzato questo incontro, provengono da quelle realtà, nel senso sono nate con quelle realtà e poi però se ne sono distaccate, no? Perché hanno approcciato in una maniera diversa e più critica alla questione dello sfruttamento animale. Inevitabilmente, se secondo me in questi anni, come giustamente diceva prima, dicevate prima voi, è stato un po' lo specchio di quello che è stato il movimento animalista, antispecista, non so neanche bene che nome dargli, perché è un po' un calderone ormai, no? Non so se siete d'accordo, nel senso che ormai antispecisti, per dire, lo usano tutti, anche la parola liberazione animale è usata da chiunque. Sì, però scusa, a essere onesti, in questo calderone ci sono persone che lo hanno sempre usato in maniera coerente e lo continuano a usare in maniera coerente. Sì, non sto dicendo questo, però secondo me politici, gruppi di dubbia provenienza politica, le parole le hanno usate tutti, capito? C'è gente che parla di liberazione animale e magari però hanno una mentalità molto per esempio discriminatoria, non so bene come definirlo, o parlano di liberazione animale e poi però ti dicono firma la petizione, no? Sì, no, sicuramente, vabbè, questo diciamo che fa parte anche di un quadro politico anche in cui sicuramente ci si può mettere in mezzo, diciamo, i gruppi neofascisti italiani che fanno un lavoro di revisionismo su qualsiasi tipo di terminologia, insomma. Però ecco, appunto, l'esempio sono proprio i gruppi neofascisti italiani, no? Ci sono gruppi adesso che l'antispecismo viene usato anche, la parola antispecismo, l'etichetta viene usata anche in ambiti politici abbastanza estranei, in chiave chiaramente strumentale. Questo non toglie però che le persone che l'hanno sempre usato questo termine in maniera corretta essere, capito, anche loro immesse dentro questo calderone, perché poi non sarebbe giusto, cioè se io dico una cosa ed è una cosa giusta, il fatto che poi venga un altro e strumentalizzi questa cosa Perché non c'è una definizione chiara, secondo te non è come, che ne so, una qualsiasi parola che ha una definizione chiara, essendo una parola molto giovane, no, il termine antispecismo, secondo me un po' tutti se la... Questo è vero. Se la rivendicano, no? Se vogliamo e anche... quindi... Dimmi. No, scusa se ti interrompo, dicevo, se vogliamo proprio il movimento di liberazione animale è un movimento anche giovane, per cui magari sì, certi, certo, ma non dico errori, una certa confusione in alcuni sia campi teorici che cose pratiche, e da un certo punto di vista anche normale, se vogliamo, no? Cioè, sì, appunto per questo noi ci teniamo a fare l'incontro di liberazione animale, per sottolineare quello che secondo noi è la liberazione animale. Non vogliamo avere il bollino, no, di registrati, no, col pallino con la R, però vogliamo dare la nostra visione, quello che secondo noi è la liberazione animale, vorremmo condividere anche con altre persone. Quello che abbiamo molto pensato è il fatto di condivisione, cioè nessuno degli argomenti trattati, nessun workshop, nessun seminario, dibattito, chiamiamo, è un momento in cui noi arriviamo con delle verità preconcette, noi nel senso persone che hanno pensato, anzi, è proprio tutto da mettere in discussione, noi semplicemente portiamo degli argomenti che ci stanno a cuore e speriamo che le persone che partecipano vorranno molto discutere, si metteranno molto in gioco da questo punto di vista. A tal proposito, prima ci parlavi di linee guida, adesso sono curiosa, ci vuoi appunto spiegare queste? Sì, sono veramente poche, però servono più che altro per rendere una convivenza rispettosa di tutti. Vabbè, innanzitutto che ci sono degli orari, che come dicevo prima sono degli orari stabiliti per permettere alle persone di partecipare ai workshop. I workshop sono già stati stabiliti, diciamo, con degli orari, proprio per una questione tempistica, quindi le colazioni, il pranzo, le cene sono la colazione dalle 7:30 alle 9, il pranzo dall'1 alle 2, la cena dalle, scusate che non mi ricordo, la cena dalle 20 alle 21. Ovviamente è tutto vegan, e se qualcuno è intollerante o ha qualche allergia particolare, questo è stato scritto sul sito e anche sul volantino che viene dato, se ce lo comunica prima noi riusciamo anche a sopperire a questa necessità. C'è la possibilità di campeggiare, perché c'è un'area appunto dedicata al campeggio. Non ci sarà un ingresso fisso, nel senso che si chiede alle persone un contributo per le spese, perché comunque verranno affrontate delle spese per il materiale, per il posto in cui si è, per il pranzo, la cena, e la parte, diciamo, restante, se ci sarà la parte, una sorta di surplus, verrà dato benefit. All'interno della tregione non verranno venduti alcolici, si è deciso, insomma, questa linea, e se però delle persone vogliono consumare alcolici si chiede che il consumo venga limitato e sia responsabile, perché non è una festa, non è un party, è una tregione di discussione, di teorie, di pratica, quindi un momento, insomma, secondo noi importante e interessante. Non saranno tollerati comportamenti e simboli discriminatori, e coloro che atterranno comportamenti o avranno addosso simboli che verranno ritenuti sottostanti a qualche ideologia discriminatoria verranno allontanati. E per quanto riguarda i cani, chiediamo semplicemente a coloro che vogliono venire col cane che questo cane sia abituato a stare in mezzo ad altri cani, per una questione appunto di convivenza responsabile. Certo. Queste sono le linee. Senti, avete, diciamo, un sito, dei contatti per chi si vuole informare, chi vuole sapere, sì, appunto il sito internet è www.incontroliberazioneanimale.org. Ok, c'è anche un'email per caso? Poi abbiamo anche delle dei volantini e dei manifesti che adesso stanno girando un po' per... Ok, non ti risentiamo più, ci senti? Ok, cerchiamo di rimetterci in contatto. Ci senti? No, ok. E vabbè, allora di nuovo ci rimettiamo in contatto. Allora, pronto, ci risenti? Sì, sì. Ok, allora vediamo se questa è la volta buona che non casca più la linea. No, comunque stavi dicendo che ci sono appunto dei volantini e dei manifesti che stanno girando l'Italia, e poi ti chiedevamo anche se c'era un'email per caso, Oddio, l'email è scritta sul sito, ora non me la ricordo. Vabbè. Una cosa volevo dire, sì, che era interessante secondo me. Quest'anno sul sito ci sarà una parte che è sul materiale, nel senso che abbiamo pensato che bene o male ogni persona che si è programmata il workshop avrà del materiale, cioè si sarà informata, diciamo, tra virgolette, avrà studiato del materiale, no? E verrà messo online il materiale, che possono essere libri o possono essere semplicemente degli articoli, e si ha anche l'intenzione che, diciamo, tutto ogni incipit, ogni introduzione ai workshop verrà stampata e verrà fatto un opuscoletto da dare all'incontro, così magari uno ha anche materiale cartaceo che magari negli anni può andarsi a rivedere. Ok, quindi scaricabile dal sito? Dico scaricabile dal sito internet? Sì, scaricabile dal sito internet, che dovremmo mettere su a breve il materiale. Ok, comunque la mail la dico io perché ce l'ho qua davanti, che è info@incontroliberazioneanimale.org. E poi l'ultima cosa che ti volevamo chiedere è, da qui all'incontro, alla 3 giorni di settembre, ci sono in programma delle iniziative. Uno è stato un concerto che Benefit, che è stato fatto qualche giorno fa, ci sembra. Poi a Roma, sì, no, non so se la vuoi dire te l'iniziativa di Roma del 24, se no la diciamo noi dopo, ma comunque ditela voi perché io non me la ricordo. Okay, perché altra gente, tanto noi anche noi ce l'abbiamo qua di fronte perché sta su informazione. E poi no, ti volevamo chiedere se da qui, comunque, a parte questa iniziativa di Roma del 24 luglio, poi ci sono altre iniziative, avete in programma altre iniziative? Ma, allora, praticamente ad esempio c'è stato il Vegan Circus qui a Vignola e siamo andati e l'hanno presentato a Torino. Ci deve essere, adesso però non mi ricordo quando, un altro festival, e qualcuno salirà a Torino per presentarlo anche lì. A Trento, cioè, diciamo che cerchiamo di, tra virgolette, infilarci in ogni iniziativa sul veganesimo, sull'antispecismo piuttosto che la liberazione animale, e promuovere questo incontro. Quindi chiunque sia interessato anche a fare appunto una breve presentazione, noi siamo disponibilissimi a questa cosa. Noi avremo un altro incontro organizzativo il prossimo mese, però questo, cioè, ormai è l'ultimo, diciamo, perché insomma ne sono già stati fatti un po', però altre iniziative no, più che altro appunto il concerto è stato fatto per riuscire ad avere dei soldi per iniziare, insomma, a prendere materiale, pagare alcune spese, perché comunque appunto volantini, manifesti adesso sono, insomma, sono tutti di tasca di ognuno. Certo. Va bene. Però chi vuole organizzare qualcosa, noi siamo disponibilissimi. Va bene, allora insomma rilanciamo questo appello. E poi se non mi veniva in mente il luogo ancora a definire, comunque Centro Italia più o meno, c'è un'area, si può limitare? No, non è molto centrale. Ah, ok, non si sa. Allora vabbè, per capire se. Ma non troppo nord, però, perché insomma molte persone vengono. Hai ragione, ma il punto è che noi dobbiamo andare dove scusate, vi rubo 5 secondi di tempo. Il punto è che ogni volta che è successo negli anni passati, ormai sono 9 anni che conosciamo la storia, succedeva che trovavamo un posto che ci piaceva, che poteva essere centrale, diciamo che anche nel nostro budget rientrava, poi guarda strano ci chiamavano dopo un po' e ci dicevano che non era disponibile. Una volta ci hanno proprio detto che si erano presentati i carabinieri e gli avevano detto che era meglio se non avevano a che fare con noi. Quindi per noi è sempre molto complicato trovare dei posti che ci permettano di creare questo evento, no? E quindi dobbiamo prendere quel che c'è, mettiamola così. Capito? Non so se mi sono spiegata sì, bene. Sì, no, è chiaro, però. Quindi purtroppo. Purtroppo non mi dispiace, non è molto centrale e spero ci perdonerete per questo. Io spero che la gente, però, anche se interessata, si sobbarcherà i chilometri che si deve fare. Ecco, vabbè. mi dispiace, hai ragione. Questa notizia arriva come un fulmine a, come un, sì, un fulmine a ciel sereno, però vabbè. Sì, no. Mi dispiace. Senti, tra l'altro, un giorno verremo lì, un giorno la faremo lì. Ci faremo perdonare. A Catanzaro la facciamo. Oppure facciamo il campeggio al centro di Roma. Per le tende. Senti, no, invece, vabbè, ricordiamo appunto, riagganciandoci a questa cosa che stavi dicendo ora, che è possibile che ci siano appunto presidi della polizia intorno, diciamo, all'evento, quindi eventualmente anche per chi viene con la macchina o cosa lì non di evitare magari di portarsi appresso così una canna, visto che ormai è poi in generale di avere un atteggiamento consono, perché comunque non è una festa, insomma, è un incontro per parlare. Sì, sì, è già appunto perché c'era la questione degli alcolici, poi ovvio che se sì, poi tu non anche viene, detto non è che appunto noi andiamo lì a fare il poliziotto di turno. Però insomma, speriamo, è affidata al senso di responsabilità di ciascuno, come dovrebbe essere. Del resto è una cosa, cioè si viene per parlare, non si viene per giocare a pallone o fare casino, insomma, quindi sì. Una partita la ci può pure scappare, ecco. Se era fatta a Roma sicuramente ci scappava, però se era al nord Italia, se era fatta a Roma manco cominciava. Ma un posto in Roma. Va bene, allora intanto sì, comunque da adesso parte la ricerca di un posto vabbè, dai, comunque niente, appunto abbiamo da tutti i contatti, se non hai nient'altro da aggiungere ci salutiamo, ecco. Va bene, allora a settembre ci vediamo, speriamo. Ok, dai. Ok, ci vediamo a settembre. A settembre, okay, sulle ciao, Alpi. Ciao. E allora abbiamo sentito appunto un'organizzatrice dell'incontro di Liberazione Animale. Mettiamo una traccia musicale e continuiamo con la nostra trasmissione. E allora ritorniamo in diretta dopo questa lunga presentazione. Veniamo a leggere quelli che sono i prossimi appuntamenti a Roma. Sì, in realtà l'abbiamo preannunciato prima durante la telefonata. Mercoledì, giovedì 24. Quando è il 24? Mercoledì e giovedì. Vabbè, comunque il 24 luglio. Il 24 luglio a Roma, presentazione del non incontro di Liberazione Animale, Parco Nuccitelli in zona Pigneto, alle ore 19 la presentazione, poi l'aperitivo a sostegno del progetto, ovviamente immaginiamo vegan, non è specificato ma sarà chiaramente vegan, e poi chiacchierata sull'aria che tira. Tutto questo mercoledì 24 luglio, Parco Nuccitelli a Roma, zona Pigneto. Ok, e poi volevamo dare la nostra solidarietà a quelli che sono gli arrestati e le arrestate Notav di sabato scorso, e quindi vi vogliamo ricordare quelli che sono i contatti per potergli scrivere, e i nomi sono Gabriele Tommasi, Alberto De Stefanis, Luca Molina, Mattias Moretti, Piero Rossi, Enrico Edoardo Donato, Marcello Botte, casa circondariale via Maria Adelaide Aglietta numero 35, 10151 Torino, il carcere Le Vallette, ricordiamo. E comunque i nomi completi e i cognomi, per chi non ha fatto in tempo chiaramente a scriverli mentre io lo dicevo a voce, stanno sul sito informazione.info, ma anche sul sito notav.info. Eh sì, adesso dobbiamo anche dire che questa è la nostra ultima puntata prima dell'estate, quindi diamo questo ennesimo dispiacere. E ci rivediamo. Dispiacere per chi? Ma chi? Vabbè, qualcuno ha già stappato lo spumante mentre dicevi. Forse a noi stessi al limite, ma, no, ma neanche, diciamo. Però possiamo annunciare questa cosa: che a settembre ricominceremo con una trasmissione un po' rinnovata. Cambieremo lo spottino, innanzitutto, che quello è tempo, ma soprattutto le tematiche verranno affrontate da un altro punto di vista e anche portate avanti, approfondite e portate avanti con un approccio differente a quello che è stato sinora. Ecco, vi lasciamo in sospeso per quest'estate. Immaginate se avete proposte, anzi scriveteci quali sono i contatti per scriverci: lagazzaladra@inventati.org. E poi per seguire il blog, che cercheremo di aggiornare con sicuramente che sicuramente radiopossum.noblogs.org, anche per sentire le vecchie puntate, per leggere ogni tanto senza eccedere qualche notizia nuova. No, se ci avete nostalgia, appunto, vi risentite le vecchie puntate, provate a telefonare. Ma no, ma forse pubblicheremo qualche cosa, perché abbiamo delle cose rimaste in sospeso da pubblicare. Ormai un po' non più troppo attuali, ma insomma. No, vabbè. E vabbè, niente, allora, appunto, con questo groppone alla gola per Radiopossum 1.0 che si conclude così, e a settembre comincerà appunto la versione 2.0. E mandiamo come al solito un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro che stanno privati e private della propria libertà personale, siano essi umani o non. Ciao, ciao, buonanotte, buone vacanze. Ciao. Buone vacanze, chi ce va. Ciao.